Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Era un sabato, quel 27 gennaio 1945. Dopo anni di guerra dura e sanguinosa, l'Armata Rossa avanzava rapidamente in territorio nazista, in direzione Berlino. Nel corso di questa lunga marcia verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, i russi si erano trovati di fronte ai resti di un esercito sempre più allo sbando, città abbandonate, depositi fantasma, e sebbene le più alte cariche militari ormai fossero a conoscenza di quel che avveniva all'interno del Reich, ciò che quel 27 gennaio venne reso pubblico fu in grado di sconvolgere il mondo. Fu proprio il 27 gennaio 1945 che i russi abbatterono i cancelli di Auschwitz, liberando non solo i pochi sopravvissuti rimasti dentro il campo di concentramento, ma anche le immagini di quell'orrore. Un orrore che ha cambiato per sempre l'iconografia del male, il male con la M maiuscola. Proprio per questo il 27 gennaio è stata la data scelta per la giornata della memoria, per non dimenticare, per impedire che un errore come questo, divenuto emblema di tutti i genocidi e di tutte le volte che l'uomo si è dimenticato della sua umanità, si possa ripetere. Come tramandare la memoria quando i testimoni, per ragioni anagrafiche, sono sempre meno? Esiste dentro l'uomo un gene impazzito, un quid di malvagità che può farci rimpiombare da un momento all'altro in quel baratro di disumanità? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. La Chiesa insegna che una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono e dalla riconciliazione. Non è facile perdonare di fronte alle conseguenze della guerra e dei conflitti, perché la violenza, specialmente quando conduce sino agli abissi della disumanità e della desolazione, lascia sempre in eredità un pesante fardello di dolore che può essere alleviato solo da una riflessione approfondita, leale e coraggiosa, comune ai contendenti, capace di affrontare le difficoltà del presente con un atteggiamento purificato dal pentimento. Il peso del passato, che non può essere dimenticato, può essere accettato solo in presenza di un perdono reciprocamente offerto e ricevuto. Si tratta di un percorso lungo e difficile, ma non impossibile. Il perdono reciproco non deve annullare le esigenze della giustizia, né tantomeno precludere il cammino che porta alla verità. Giustizia e verità rappresentano invece i requisiti concreti della riconciliazione. Bentornati carissimi ascoltatori, è con noi Claudio Piron, assessore alle politiche giovanili del Comune di Padova. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. La giornata della memoria viene organizzata stabilmente da circa una decina d'anni. Mi ricordo ero al liceo quando è cominciata ad essere di dominio pubblico. Questo ha anche portato una maggior consapevolezza tra le giovani generazioni di quello che è avvenuto ormai quasi 70 anni fa e ha trasmesso l'orrore di quello che un uomo può arrivare a fare contro i suoi simili. A dare un grosso contributo, la formula sperimentata con successo e ripetuta con sempre più giovani dei viaggi della memoria. Abbiamo chiamato lei, assessore, perché lei li organizza. Ci può spiegare cosa sono e i ragazzi come tornano a casa dopo un'esperienza profonda di questo genere? Questo è un progetto che vuole dare gambe ad una legge, la legge appunto che nel 2000 ha istituito la giornata della memoria della Shoah. Ed è importantissimo perché si rischia di fare le leggi e poi lasciarle vuote. In questo modo noi facciamo un viaggio nella storia, vogliamo riattraversare il tempo, la storia, lo spazio e andiamo in pullman proprio per attraversare anche l'Europa, i paesi, le città, le culture, gli ambienti e andare ad un punto zero, a un grado zero della civiltà, uno dei punti più bassi che la nostra civiltà ha conosciuto e ha prodotto. Per fare che cosa? Volgarmente direi per dare un pugno nello stomaco ai giovani, per dare loro la possibilità di sentire l'odore, di sentire il freddo che penetra e di mettersi nelle condizioni che purtroppo milioni di persone innocenti hanno subito e capire dove sta la nostra, dove stanno le nostre radici, dove sta, come dire, il punto di svolta rispetto alla quale dobbiamo reagire continuamente. I ragazzi tornano cambiati, noi raccogliamo gli iscritti prima e dopo il viaggio, loro fanno un patto con noi di accettare questo viaggio e di accettare di essere interrogati sin nel profondo di se stessi, per porsi delle domande e trovare delle risposte a questi interrogativi. Chi è l'uomo? Da dove veniamo? Chi siamo? Perché succedono queste cose? Come è possibile? Cosa possiamo fare noi perché ciò non avvenga ancora? Ed è un'esperienza fortissima, soprattutto quando si riesce ad incontrare qualche testimone ancora sopravvissuto, perché lì si tocca con mano e i ragazzi colgono quasi la consegna, appunto, di un patrimonio che loro devono adesso testimoniare alle generazioni che verranno, perché chi viveva in quegli anni ormai sono davvero poche persone. Andiamo un po' sullo specifico, sono scolaresche, sono gruppi, sono ragazzi, sì. Verso a che età è rivolta questa esperienza? Ci sono anche tanti tipi di ragazzi, chiaramente ci sono quelli magari più bravi a scuola, che hanno studiato o che sanno di più, e magari anche ragazzi provenienti da altre culture o da altre idee, o che magari io penso che tra i miei compagni di scuola media c'erano anche simpatizzanti di estrema destra che magari avevano idee diverse. Io so che mi ricordo un viaggio della memoria andato in televisione fatto con dei ragazzi di estrema destra che hanno, insomma, non dico cambiato idea, però sono stati veramente, come diceva lei, colpiti con un pugno sullo stomaco da questa esperienza. Sì, sono importanti questi viaggi perché non lasciano spazio a parole vuote, ti obbligano a fare i conti con te stesso, insomma, ecco. Se non sei proprio un cembalo vuoto, devi renderti conto che queste cose sono successe, questi fatti sono avvenuti. La cultura tedesca, peraltro, ha fatto sì che è stato tutto documentato in maniera minuziosa dai nazisti, nelle torture, nelle angherie, e tutto si ritrova ancora documentato in maniera molto molto precisa, per cui si capisce come c'è stata una regia, come ci sia stata una condivisione non solo dei gerarchi ma di medici, scienziati, uomini di cultura, artisti, fotografi, registi. Andare al museo, al centro di documentazione di Norimberga, rende plastica l'idea di questa volontà di ricreare l'impero e di questa volontà di essere un dio da parte di Hitler, ma anche la consapevolezza netta di tutta una cerchia di adepti che hanno condiviso questa idea. E anche il senso di responsabilità che l'Europa non ha saputo assumere negli anni 20 del 1900, immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'Europa ha imposto delle sanzioni pesantissime, troppo pesanti alla Germania, per cui il paese si è indebolito, si è immiserito in maniera grandissima, per cui una protesta così forte e un'idea così balzana come quella che Hitler ha proposto con il nazionalsocialismo ha potuto attecchire in una popolazione devastata prima dalla guerra e poi da un castigo enorme che aveva portato a un'inflazione spaventosa. Allora, stare in queste condizioni e vederle aiuta anche i ragazzi a volte, che hanno delle idee un po' legate al negare, al dire che non è vero, al dire che non è mai successo, è un'invenzione, ma io qua e là. Ecco, li vedi che sono costretti a fare i conti con questi flash, con questi slogan. Un pugno sullo stomaco, come diceva. Sì, ed è importante darlo, però poi bisogna assolutamente razionalizzare, riflettere, certo, argomentare, confrontarsi. Ci fermiamo qualche istante, assessore, torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Che ero bambino, son morto con altri 100. Passato per un cammino ed ora sono nel vento. C'era la neve, cemento, nei campi tante persone che ora sono nel vento, nel vento, tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non ho imparato a sorridere qui nel vento. No, io non credo che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e che il vento mai si poserà, che il vento mai si poserà. Ancora suona il cannone, ancora non è contenta di sangue la vedova umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento, ancora suona il cannone, ancora non è contento. Saremo sempre a milioni in polvere qui nel vento. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori a Il bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con l'assessore Claudio Piron del Comune di Padova e stiamo parlando di Giornata della Memoria e di Viaggi della Memoria. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Anch'io ho visitato un campo di concentramento qualche anno fa. Ero alla GMG, alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2005, eravamo ospiti presso una famiglia bavarese vicino a Monaco, e come prima cosa, il primo giorno che siamo arrivati, ci hanno portato a Dachau, alla vicina Dachau, la prima cosa che ci hanno voluto mostrare. E subito a chiare lettere il papà e la mamma di quella famiglia, degli onesti allevatori di mucche da latte, mi hanno detto di vergognarsi di quello che hanno fatto i loro genitori, i loro nonni. Apertamente ci vergogniamo. Una presa di conoscenza netta che mi ha spiazzato sia per la sua limpidezza che per i pochi giri di parole. La Germania, insomma, si è assunta con chiarezza le colpe, altre nazioni no. Quanto è importante per la maturazione di un popolo riuscire a fare i conti col proprio passato, così, a chiare lettere? Beh, questo è fondamentale, lei ha toccato un punto nodale, lo vediamo anche in questi giorni in cui alcuni ragazzotti si prendono a sprangate per l'esibizione di un quadro piuttosto che di un'idea diversa, non funziona, ecco. Noi non abbiamo in Italia fatto i conti con la nostra storia. I tedeschi hanno fatto questa fatica, la stanno facendo. In questo ultimo viaggio a dicembre eravamo anche noi a Dachau e abbiamo incontrato molte scolaresche tedesche. E la guida ci confermava che una volta all'anno i ragazzi dai 15 ai 18 anni è previsto nel loro percorso di studi una visita ai campi di concentramento, ai centri di documentazione, ai musei di Berlino e via dicendo. Ed è parte del loro percorso di studio della storia e di educazione civica. E questo significa che un paese ha preso in mano i suoi misfatti e li ha analizzati, li ha smontati per capire come impostare la vita comune, come impostare la vita delle istituzioni anziché non possa mai più ripetersi un dramma del genere. L'Italia non ha mai fatto questo processo e questo non voler entrare nelle responsabilità, non voler entrare nel capire il perché e il per come è molto pericoloso, tanto è vero che ancora oggi noi anche in Parlamento sentiamo purtroppo persone che si accusano di essere fascisti e comunisti. Questo non porta da nessuna parte, questo riaccende continuamente micce che non abbiamo bisogno di riaccendere. E purtroppo questo è un problema proprio politico, culturale, sociale di questo paese che non ha ancora introdotto nei programmi di studio delle scuole superiori, ad esempio, una visita ai campi di raccolta che abbiamo anche in Italia, una visita al campo di sterminio che abbiamo avuto a Trieste, a San Saba, e via dicendo tutta una serie di attività che dovrebbero essere propedeutiche alla crescita dei giovani. Le faccio una domanda apparentemente filosofica, ma in realtà è molto dentro questo argomento. La Shoah è stata provocata dal regime nazista, dalla politica, dall'ideologia che hanno traviato l'indole buona, umana, dell'uomo sana, oppure hanno semplicemente riacceso quell'istinto ferino, quel marcio che comunque è sempre dentro di noi? Beh, questa è una domanda difficilissima. L'uomo, dice un ebreo, è l'unico animale che è arrivato a mangiare se stesso senza averne motivo, a sbranare se stesso senza averne motivo, ed è quello che è successo con la Shoah. Purtroppo lì c'è stato proprio un calcolo, può esserci stata anche una deviazione, ma è evidente come c'è stato un concorso di responsabilità e di colpe e come c'è stata, come dire, la ricerca di un capro espiatorio al fine di raggiungere un obiettivo, di raggiungere un pezzo di potere, di raggiungere un dominio. E quindi è chiaro che nell'uomo c'è il bene e c'è il male. È un tema questo filosofico, è un tema antropologico, è un tema che in tutte le tribù del mondo viene affrontato ed è un tema che noi abbiamo abbandonato nella nostra civiltà iperindustrializzata con troppa faciloneria. Dove sta il bene e dove sta il male? Cosa posso spostare io con una mia scelta singola, personale, o di gruppo, o di sistema paese, o di grande o piccola comunità? Quali sono gli anticorpi che dobbiamo somministrare nelle dosi giuste, nelle nuove generazioni? Queste sono le domande che dobbiamo porci e questo è il tema su cui dobbiamo lavorare, perché altrimenti educare, formare, diventa una scatola vuota, diventa un percorso inutile. Dobbiamo porci le domande sui valori fondamentali: chi è l'uomo, da dove arriva, dove va, perché a un certo punto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita che ogni persona è sacra, che esiste solo una razza, la razza umana, e quindi non esistono le razze di fatto. Questo è un percorso che non dobbiamo mai dare per scontato, dobbiamo sempre riprenderlo, perché come ogni giorno nascono 10, 100, 1000 milioni di bambini, ogni giorno noi dobbiamo riaprire questo percorso e stare accanto a loro e accompagnarli nella riflessione, nella crescita, nell'assunzione di responsabilità. Quindi nell'uomo si possono celare, l'abbiamo visto, anche queste aberrazioni. Si parte da un punto, facciamo l'esempio: in Italia le leggi razziali non ce le ha imposte Hitler, le ha decise il Parlamento del 1938 e lì, per compiacere, per non avere problemi, uomini politici, scienziati dell'epoca, uomini di cultura, medici, hanno detto che esistono tante razze, tra cui la razza italiana, tra cui la razza bianca, la razza nera e via elencando. E siamo arrivati all'espulsione degli ebrei dalle scuole, alle persecuzioni e via dicendo. Abbiamo ancora pochissimo tempo, però in conclusione, la Shoah è divenuta un po' nell'immaginario collettivo, nell'iconografia del male, come dicevo prima, un po' l'emblema di tutti i genocidi, di tutte le volte che l'uomo ha dimenticato la sua umanità. Esistono ancora genocidi nel mondo e noi ringraziamo insomma anche queste iniziative di memoria, di ricordo. Lei diceva che c'è necessità non solo di dare un pugno nello stomaco, ma di aiutare a razionalizzare e di impedire che questo succeda ancora. Grazie per quello che fate e insomma continuiamo così, perché ce ne sono molti altri genocidi che ancora oggi nel mondo avvengono. Sì, purtroppo sì, ce li abbiamo sotto gli occhi e covano continuamente. Io credo che un ruolo importante dovremmo giocarlo anche come Europa, come L'Europa ha una grande caratteristica, essere un'unione di minoranze. Allora, se noi riusciamo a vivere bene tra di noi, ad affrontare i problemi, le crisi nella giusta dimensione, mettendo assieme il confronto delle idee e delle soluzioni praticabili, mettendo al centro il bene delle persone e dei popoli, potremmo giocare un ruolo anche sullo scacchiere internazionale, io credo, e aiutare ad evitare questi genocidi che ancora abbiamo conosciuto in molti posti, insomma, in Ruanda, in Cambogia, in Bosnia, nel Darfur. Grazie Assessore per essere stato con noi e grazie della testimonianza che ci ha dato. Grazie molte a voi per il vostro lavoro, il vostro impegno. A presto e buone feste. Grazie. Dobbiamo cancellare buone feste perché arriva dopo. Ah, scusa. No, nessun problema. Grazie per il tempo che ci ha concesso e... Mancherebbe. E buone feste, lo dico adesso. A voi, microfono. Grazie ancora. Grazie, buon Natale. Noi ci... Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito o potete contattarci per mandarci... L'appuntamento con noi, carissimi ascoltatori, è per la settimana prossima alla stessa ora sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul nostro... L'appuntamento con noi, carissimi ascoltatori, è la settimana prossima alla stessa ora alle L'appuntamento con noi, carissimi ascoltatori, è sulle frequenze di Blu Radio Veneto alla stessa ora la settimana prossima. Potete riascoltarci sul nostro sito grazie al podcast o potete mandarci una mail per critiche, suggerimenti, elogi o segnalazioni a redazione @bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.